Yao, ho scritto un pezzo nuovo, mi sono inventato una cosa nuova, è troppo figa da far sentire, però non sento mai niente. È un casino mortale. Stappo questa penna, un foglio da riempire di pensieri, parole cervellotiche, frutto degli emisferi cerebrali. Mi spazzi su tagli di strumentali e compari, qua faccio i soldi se investo sui genitali. Ma si tratta di notorietà, non vanità, ma qualità. E fra tanti bla bla bla, scrivo gli assegni di invalidità. E stai bravo, rifletti su ogni barra mentre scrivi e vivi ciò che vedi sempre nel niente degli Appennini. A zero, yo, l'ho scritto solamente per lanciarmi. Adesso Mel dice che scrivo troppo, devi fermarti, guardi. Non è una colpa se produco più degli altri, ma negli altri sta la colpa di non riuscire a placarmi. Ho la forza nei palmi per sollevarti e sopportarti, lontano dagli sguardi, bastardi. Sto foglio lo riempio di fisso con ciò che sbocco. Entrami nel pensiero e davvero viaggiamo troppo. E siamo troppo più là della gente che senti. Fuori 5 dischi all'anno, 100 tracce potenti. E no, a me non basta perché so che se la tocco, sta musica mi parla e ti giuro che parla troppo. E siamo troppo più là della gente che senti. Fuori 5 dischi all'anno, 100 tracce potenti. E no, a me non basta perché so che se la tocco, sta musica mi parla e ti giuro che parla troppo. Parla troppo, non riesco più a tentare di zittirla. La mia lingua tintilla, fra domitilla, sottiglia, la cinghia e brilla di un talento naturale. La mia gente, perché spacca più di te, pure se non dice niente. Molto lentamente, gioco col tempo sempre. Semplicemente scaccio il pedale, la chiudo mentre tu non la capisci, no. Fischi, scrivi dissing. Se me ti sputa in faccia, fa il grasso, pratica pissing. Cristo, nell'hip hop sono la gente di mestiere. Ho la gente per far muovere sta gente nelle sere. Serenate di quartiere, coglione, vieni a vedere com'è che riempio i fogli spaccando le stilo nere. L'inchiostro va dappertutto mentre sembro un cazzi. Se il grasso fa non fa brutto, c'ha una faccia da schiaffi. Ma spingo sta merda e non penso alle tue cazzate. Campionati sto suono e faccio il disco per l'estate. E siamo troppo più là della gente che senti. Fuori 5 dischi all'anno, 100 tracce potenti. E no, a me non basta perché so che se la tocco, sta musica mi parla e ti giuro che parla troppo. E siamo troppo più là della gente che senti. Fuori 5 dischi all'anno, 100 tracce potenti. E no, a me non basta perché so che se la tocco.